Funtime Radio presenta Ludico Forum. E carissimi amici di Runtime Radio, di Etologia Videoludica e quindi anche Ludico Forum, perché poi queste dirette che facciamo qui sul canale di Etologia Videoludica, che abbiamo ripescato dopo anni insomma di silenzio ed oscurità e oblio, andranno poi ovviamente nel feed di Ludico Forum come podcast. Chiaramente insomma tenete sempre in considerazione che quando si tratta di un podcast audio che viene da una live su YouTube, insomma ci saranno sempre un po' un minimo di differenze, perché magari faremo riferimento a questioni visive, ma non tanto in questo puntata specifica. Insomma, vi ricordo ovviamente che Dietrologia Videoludica, Ludico Forum fanno parte ovviamente del progetto Runtime Radio, che se volete sostenere basta andare su runtimeradio.it e cliccare su anche io, e dove lì trovate ovviamente tutte le possibilità di fare una donazione, un regalo, quello che volete, oppure cliccare su questo QR code che adesso ovviamente sparirà e lo metteremo invece in alto a sinistra, in modo che insomma possiate averlo sempre a disposizione nel momento in cui viene voglia. Dice: guarda, adesso c'ho proprio un desiderio incontrollato di fare una bella donazione. Andate qua sopra, vedete qua dove sto indicando, e potete chiaramente fare, insomma, dare ovviamente una mano a quello che è il nostro progetto. Sarà sempre lì disponibile. L'unica cosa che voglio invece aggiungere, se ce la faccio, perché qui purtroppo mi devo un po' organizzare per quanto riguarda ovviamente questa postazione di regia, perché sto lavorando con due computer, però poi sono tutti uno alla portata, insomma un po' meno alla portata di quell'altro, quindi insomma devo guardare lì, devo guardare qua, devo guardare sopra, tre monitor, quattro cose, io non sono abituato, ragazzi, a cui c'è una certa. Però vi volevo dire che le prossime trasmissioni che faremo prossimamente sono giovedì sera sul canale di Runtime Radio, torneremo con Quando Eravamo Futuro. Venerdì sera torneremo invece con una bella puntata di Runtime by Night, e sempre sul canale YouTube ovviamente di Runtime Radio, e invece tornando su questo canale, quello di Etologia Videoludica, lunedì prossimo parleremo di quello che è il gioco che ci piacerebbe realizzare, cioè come lo faremmo noi un videogioco, cioè nel senso qual è la nostra idea, qual è la nostra storia, qual è il tipo di gioco che faremo e quali intuizioni possiamo avere nel volere sviluppare questa cosa. Quindi ricapitolando, poi questi nuovi appuntamenti insomma ve li dico verso la fine. Oggi invece parliamo qui di hardware e PC da gaming, però per farlo abbiamo dovuto chiamare l'espertone, perché io proprio un tipo d'argomento dove quando ero pischello forse le sapevo tutte, oggi proprio ho perso il contatto con la realtà, ma d'altronde già incominciare c'è una certa, e quindi abbiamo il nostro Giuseppe Pugliese. Ciao! Ciao Simone, buonasera, grazie innanzitutto per l'invito, ma soprattutto ringrazio per l'epiteto espertone, ma diciamo che mi sento più come quando tu eri pischello, cioè nel senso una persona che videogioca da quando era piccolo, tant'è vero che la passione per il computer gli è nata da, appunto, grazie a un videogioco, e poi ne ha fatto un lavoro, quindi diciamo che più che esperto sono qualcuno che cerca di risolvere i problemi, che poi che siano videogiochi, che siano hardware, oppure che sia il mio lavoro, quindi il web designer. Sostanzialmente cerchiamo di risolvere il problema e di portare a casa il risultato. Ok, allora presenta un attimo, presentati, cioè nel senso che l'hai già fatto, però magari di che tipo di attività fai, insomma sponsorizzati un po'. Ok, allora ti ringrazio. Allora sostanzialmente io faccio il web designer, lavoro in questo momento per un'agenzia, però lavoro anche come freelancing, appunto per la creazione e la messa online di siti web più o meno complessi. Faccio un podcast che è un po' morto ultimamente proprio a causa degli impegni vari, sempre grazie a un altro carissimo amico che è Alex Racuglia, che all'inizio mi ha spinto a fare questo podcast, proprio perché per quanto riguardava tutta la parte web design eccetera non c'era nulla di tra virgolette di realistico, perché erano tutte semplici marchette su andate qui, fate qui, utilizzate queste donazioni, utilizzate questo tool eccetera, ma di capire realmente come funziona questo mondo e soprattutto non essere fregati usati da chi utilizza male lo strumento, proprio per questo motivo allora ho deciso di fare il podcast. Poi appunto ultimamente in quest'ultimo anno e mezzo ho pubblicato poco, però qualche volta ho pubblicato, e a parte il podcast, diciamo, aiuto gli amici nel, appunto, nel fare sia PC da gaming con, per quanto riguarda quando mi chiedono la configurazione, oppure per quanto riguarda la parte sistemistica su un sistema appunto di storage eccetera. Questo è beh, quindi chi meglio di te, insomma, questa puntata. Intanto salutiamo già, insomma, quelli, qualcuno in chat già vedo che piano piano compare, e quindi vabbè, poi magari se avete delle domande, insomma, poi Giuseppe magari intercettando, nessun problema, magari vi risponderà anche. Allora, abbiamo pensato di fare questa puntata perché in realtà questo è un periodo un po' particolare, lo è stato in questi anni, Covid, post-Covid, ultima generazione console, le console spariscono ma in realtà poi non spariscono, cloud gaming, tutte cose insomma che sono lì, sono tutte, si affacciano tutte quante alla porta, ne abbiamo parlato tantissime volte, però poi alla fine resta ancora un pizzico magari per le persone magari meno esperte che comunque vogliono rimanere legate al mondo del videogame, però si trovano magari in un momento di difficoltà, no? Perché partiamo dalle console, magari, cioè concettualmente le console, sì. Diciamo, allora, diciamo, se vogliamo introdurre l'argomento per quanto riguarda, sì, le console, allora, considerando che io ho forse 30 anni, quindi negli ultimi 29 anni, sì, sono molto giovane, diciamo che appunto, come dicevamo in pretrasmissione, appunto, come dice il nostro lobby frontali, con Apple c'è la macchina definitiva, quindi già mi va a puntellare, perché chi mi segue sa, cioè anche nel gruppo di appunto di Tecnopills eccetera, sa che io ero Apple fan sfegatato, e poi ho deciso di ripudiarla come quando la mamma cattiva non ti dà le caramelle e decidi di fargli dispetti. Bravo. Quindi allora, per quanto riguarda l'ambito console, diciamo che io ho vissuto le ultime generazioni, quindi sono passato, la PlayStation 1 l'ho vista col binocolo perché sostanzialmente ero troppo piccolo. Io ho fatto grandissimo affidamento su quello che era PlayStation 2, poi sono passato a Xbox 360, quindi diciamo ho fatto un po' qua un po' là. La PlayStation 2 è bellissimo hardware, PlayStation 3 con Xbox 360, diciamo lì si iniziano a vedere già le prime differenze, perché a livello architetturale, ora senza fare situazioni complicate, Xbox era già un PC, nel senso che era un PC di fascia bassa come architettura hardware, mentre la PlayStation aveva ancora il concetto delle console come la Switch, come altri tipi di console che erano basati su hardware differente, nel senso che avevano diverse istruzioni, erano fatte in maniera differente. L'Xbox aveva già nell'ottica questa cosa del PC di fascia bassa, e vediamo che Microsoft appunto aveva probabilmente imboccato la via giusta, perché vediamo questa generazione di console, quindi Xbox One, PlayStation 4, Xbox Serie XX, tutte le nomenclature, e PlayStation 5 sono dei PC a tutti gli effetti di fascia bassa. Oggi sì. Perché per chi non lo sapesse, hanno all'interno tutte APU, cioè quindi non sono dei processori, quindi processore, scheda grafica, cioè, ma è tutto in un unico blocco AMD. Quindi sostanzialmente sono dei computer di fascia bassa AMD, detto papane papane. Sì, esatto, infatti quello che volevo dire io è che oggi noi abbiamo fatto un grandissimo discorso in generale negli anni, e oggi non lo riproponiamo come tipo di discorso, però diciamo che chi fa una scelta cioè chi sceglie la console fa una scelta di campo, no? Cioè che più che sul discorso strettamente legato all'hardware, secondo me più al discorso delle proprietà, no? Cioè quindi delle esclusive, tutto quello che è, ovviamente, e anche per avere un po' la vita semplice, nel senso, io mi compro comunque una PlayStation 5 e arrivederci, grazie, insomma, perché sì, poi perché sostanzialmente almeno la dicotomia fino a prima della pandemia, perché dopo la pandemia è cambiato totalmente il ragionamento, già come appunto introducevi, perché prima della pandemia io sceglievo Sony, quindi PlayStation, perché volevo i giochi AAA, le grandi storie, i gioconi, le esclusive, eccetera, eccetera, eccetera, il God of War, il The Last of Us, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso questa situazione è cambiata totalmente, perché col fatto che Microsoft, diciamo, ha alzato bandiera bianca per quanto riguarda le console, perché ha detto: io faccio console, ma non è il mio core business, voglio puntare su quello che è appunto il software. Quindi varie acquisizioni, mi sono comprato a Bethesda questa situazione, Activision, vediamo se andrà in porto o non andrà in porto, questo tira e molla continuo, per cui la guerra tra virgolette si è spostata sul software. PlayStation ha deciso di fare uscire tutta una serie di esclusive su PC e io la ringrazio, perché non avendo PlayStation ho potuto giocare dei gioconi come appunto attualmente ho giocato solo God of War un Days Gone, che era un prodotto un po' secondario, tant'è vero io sono arrabbiatissimo e su Twitter ho fatto tuoni e fulmini quando Sony mi ha annullato il Days Gone 2 di Band Studios. Sì, ma non ha venduto, cioè non è stato dicono prodotto. Che non ha venduto, dicono che non ha venduto, però però la menzogna. Allora Sony, vabbè, dai, Sony non è sto giocone, diciamoci la verità, insomma, secondo me un po' è c'è. Vero, però durante la pandemia io ci avrò speso qualcosa. Vabbè, quindi qualcosa c'è un legame tuo, certo, sì, 70 ore, okay. E ma infatti parlo per me, il fatto che me l'abbiano cancellato, non ho detto il fatto che me l'abbiano cancellato e che abbiano messo questo, certo, splendido team che parte come team indie tra virgolette e poi mi caccia un gioco di sì, questo però genere all'ombra di The Last of Us era tosta, cioè nel senso è vero, ma infatti Sony quello ha detto io ho due brand di zombie, ho The Last of Us e mo sti ragazzetti tra virgolette che partono con Days Gone, vado su The Last of Us, è vero. Però io The Last of Us ancora non l'ho giocato, proprio perché il mio hardware appunto non è di grandissimo spessore, certo. Non ho PlayStation e l'uscita di The Last of Us su PC è stata funestata da un sacco di problematiche, sì, che adesso parrebbero risolte, però c'è sempre un piccolo problema e da qua appunto tutta questa carrellata del post pandemia, diciamo nel mio cervello, perché anch'io vorrei cambiare sistema, vorrei aggiornarlo, mi ha proiettato nel fare una serie di ragionamenti che magari 2-3 anni fa non avrei proprio fatto. Perché prima compravi PlayStation per il software, adesso bene o male il software ti esce su PC. Quindi PlayStation inizia a perdere, al mio modo di vedere, appeal. Perché se dopo 2-3 anni ti esce il God of War bello, preciso, la definitive version con tutti i DLC, con tutta la roba, perché ha un'altra piaga del videogioco, che è quella che a me non piace, è proprio questa. Che il gioco ormai deve uscire per forza col rotto, incompleto. Lo so. E quindi ci vogliono gli anni per completarlo. Alla fine io aspetto tranquillo un mese su PC, tranquillo, 10-2 anni dopo, tutto bello, aggiustato, organizzato, e quindi è fattibile. Per cui Microsoft non possiamo anche non contarla per quanto riguarda le console, perché loro con l'ecosistema, appunto Game Pass, che è stato un terremoto, con la situazione cloud, perché appunto Microsoft Cloud attualmente non è ancora in Italia disponibile, ma è disponibile in tantissime nazioni e sta continuando la beta, cioè quindi avere i tuoi giochi Xbox praticamente anche sul cellulare, perché tu ci puoi giocare anche col cellulare, con quello che voleva fare Stadia, che poi non c'è riuscito a fare Google dalla sera alla mattina. Ma non è che non c'è riuscita, Stadia c'è riuscita, ma soltanto che poi a un certo punto non gliene fregava più niente, che Google fa così, perché avevano un modello di business che non era fattibile, perché sì, se io mi compro il gioco su Steam e poi me lo devo ricomprare su Stadia, e mentre con Microsoft su questo, male. Su questo sono d'accordo, è vero pure che se tu scegli il Pro poi alla fine alcuni giochi erano come sul Pass, cioè erano disponibili. L'unica cosa è che secondo me Google era più interessata a sviluppare la tecnologia che poi tant'è vero, che poi tant'è vero adesso dice che lascerà in outsourcing non si sa chi, cioè, ma è normale, cioè è giusto, come con Amazon AWS con le dirette di Twitch, cioè nel senso io la piattaforma Twitch, molti non lo sanno, ma la piattaforma Twitch, se tu vuoi spendere 10.000 euro al mese te la puoi fittare, la piattaforma viola, tu vuoi dire sì. No vabbè, tu te la puoi fittare e fare appunto tant'è vero che c'è una piattaforma che si chiama Kick, che in pratica c'ha la degenerazione di Twitch, cioè ci stanno tutti quanti, che ti devo dire, ci stanno gambling, gioco d'azzardo, cose strane, che sono stati appunto bannati dalla piattaforma Viola. Un tizio a caso ha deciso di prendersi Amazon AWS e si è fatto la sua piattaforma. Cioè quindi l'hardware sta diventando sempre meno importante, esatto, e sta diventando il software, la killer application. Io compro PlayStation per la killer application, per il gioco AAA, per il The Last of Us. Sì, allora diciamo che una volta si accompagnavano queste due cose, no? Cioè tipo PlayStation costruiva il suo hardware e lo costruiva insieme a dei brand importanti che magari erano legati alla console. E oggi secondo me è più il discorso delle esclusive, però il fatto che poi certe esclusive dopo X anni te le ritrovi anche su PC è un po' come se Sony e Microsoft dicessero: guardate che sta storia delle console prima o poi ci ha stufato pure a noi, perché a noi la cosa importante è vendere il software, perché PlayStation sì. Non so che modello di business vuole continuare ad avere, sincero, perché io la vedo non si capisce in effetti, perché in teoria anche loro stavano sviluppando il loro cloud gaming, però poi alla fine non l'hanno ancora finalizzato come si deve, mentre che Microsoft già sta più avanti da sto punto di vista. È soprattutto Microsoft è regina di cloud in questo momento, perché Azure è la seconda piattaforma dopo AWS a livello di utilizzo. PlayStation chi è? Nessuno. E in questo momento si basa appunto su AWS. Cioè, quindi il loro know-how, perché mentre Microsoft lo capisco, loro hanno il know-how, hanno la piattaforma, hanno la tecnologia. PlayStation è anche quello, tant'è vero che ti caccia con una piattaforma che attualmente ti dà il 720p, massimo il 1080, non mi dà tutti i giochi. Io sinceramente, da appassionato di videogiochi, se mi voglio giocare, che ti devo dire, la mia era golden, mi vado a giocare i titoli PS3, mi vado a giocare i titoli PS2, cosa che attualmente PlayStation ancora non ha implementato, e no. Quindi non so se mai li implementerà, per cui il cloud di PlayStation secondo me non ha senso. Io non ho capito l'ultimo messaggio di Francesco. Io con il pass ci ho giocato il cloud in Italia, che significa? Allora, sostanzialmente, che io sappia, perché poi a me il Game Pass Cloud non l'ho provato, dovrebbe essere in beta, cioè quindi ad alcuni funziona, ad altri no. In Italia no, se parli non è stato lanciato. No, io con l'Ultimate ce l'ho, tutti i giochi che sono in cloud sono disponibili. Ci puoi giocare anche sul cellulare? Sul cellulare non te lo so dire, perché io non lo farei mai, cioè proprio è una questione mia proprio religiosa. Vabbè, proprio, cioè. Ho capito. Per me non si può giocare sul cellulare. Però dico in generale, quando la piattaforma cloud sarà la sua massima potenza, che è quella che stanno utilizzando prettamente nelle Americhe, io inizio a giocare, che ti devo dire, all'Xbox, poi chiudo il gioco, passo a PC, poi passo al... Perfettamente d'accordo, ma anche che tu mi fai l'app per la Smart TV, per dire. Cioè io sono assolutamente d'accordo, per me questo è il futuro, no? Adesso noi parleremo questa sera, adesso iniziamo a parlare seriamente di fasce di hardware per PC, no? Perché comunque diciamo che oggi magari una persona, diciamo, dei 30-40 anni, il PC magari se lo compra per giocare, però alla fine oltre che per giocare lo compra pure per altre cose, no? Quindi diciamo che deve tenere in considerazione tutta una serie di questioni, che sono i soldi prima di tutto, il budget, il fatto che comunque tu con questo PC in teoria ci farai anche altro, e magari questo altro dipende anche dal tipo di professione barra hobby che fai, esatto, e poi perché che comunque ti permetta di giocare dei giochi che ti interessano chiaramente, e ovviamente lì poi diciamo che le tue possibilità sono, diciamo, di pari passo con il realismo di quello che puoi fare, insomma, no? Nel senso, la cosa bella di PC è che sono sterminate, perché mentre tu su console, diciamo, sei bloccato a quel videogioco, che sono gli sviluppatori che decidono in che modo deve girare, per quanto adesso le console, come appunto dicevamo prima, si stanno PCizzando, perché guarda caso sono iniziate a uscire le famose o 30 fps massima potenza o 60 fps, certo. e me la gioco io come ti faccio vedere il videogioco, certo. è un portarlo a PC, perché appunto noi sappiamo che la cosa bellissima è che tu, se anche non avevi o anche oggi non hai, come è il mio caso, un PC dell'ultimo grido, perché io ripeto, appunto, molti hanno perso la lingua quando hanno saputo che io gioco con un i3-8100, che è di un parecchio tempo fa, visto che ora siamo a serie 13000 di Intel, è un RX580, parliamo di hardware di 8 anni fa. Eh beh, certo. E a videogiochi iperottimizzati, come per esempio un The Witcher 3, io mi faccio il 1440p, cioè quindi oltre il 1080, a dettagli quasi massimi, effettivamente ti fa capire che se ci sai mettere le mani... Se ci sai mettere il bello dei videogiochi, soprattutto per PC, è che se ci sai lavorare sopra, effettivamente sì, non avrai l'increspatura nell'acqua oppure i capelli fluenti. Vabbè, sì, però il videogioco è un'altra cosa. Quello che appunto hai detto tu, che ti ho sentito nominare, il famoso ray tracing, qua possiamo mettere anche un possiamo appunto andare a inserire insieme alle fasce un altro punto di vista. Personalmente, tutte le tecnologie in Nvidia sono bellissime tecnologie. Fino a due o tre anni fa era il famoso Airflow, quelle cose là che ti permetteva i capelli fluenti. Ora adesso il frame generation con appunto il ray tracing, per me sono un di più, sinceramente, perché mentre tutto l'aggiunto è un di più, però poi alla fine, no? Sì. Cioè, io allora, non ne sento le necessità, di dire la verità. Io parlo, faccio comunque l'avvocato del diavolo, ti dico, a me, cioè, io neanche a volte non me ne renderei conto. Non è che mi soffermo a guardare la pozzanghera col riflesso del neon. Però diciamo che quello che ottengo oggi è, per me è abbastanza realistico. Poi se un giorno ci avrò l'opportunità di averci anche il ray tracing, bene, se no poi non mi è che... Mi trovi d'accordo. Non la è che cosa... mi ci accapiglio, insomma. Visto che tu fai l'avvocato del diavolo, io ti porto in un campo in cui è difficile battermi, ovvero il campo logico, matematico. Nel senso che se andiamo ad analizzare tutti i videogiochi che attualmente hanno le nuove tecnologie come ray tracing e soprattutto frame generation, te li puoi contare sull'avvio di una mano. Quindi, appunto, quando si parla di configurazioni, almeno che non vuoi fare dei ragionamenti precisi per quanto riguarda io ci voglio il ray tracing, stop, e il frame generation con il DLSS, ok, ti do ragione. Nel senso, tu vuoi quelle feature, ma se non le vuoi, c'è praticamente la maggior parte dei videogiochi che in questo momento non le implementa. E sapendo come, da qua che appunto non sono felice, la cosa bella è che quando diciamo fai le guerre, sei da una parte o dall'altra. Io in questo momento non sono né pro Nvidia né pro AMD, perché tutti e due in questo momento stanno facendo, tra virgolette, la guerra dei poveri e la guerra degli stupidi. Perché appunto, come dicevamo nel fuori onda, in breve, quando tu mi fai uscire un comunicato bastardo, perché è un comunicato bastardo, pochi giorni fa, tramite Twitter, in cui vai a dire che la prerogativa Starfield, quindi il videogiocone di Bethesda, nuovo scenario, boom mega ultra, che a me ha fatto uscire pazzo, e non solo a me, perché potrebbe essere il nuovo Oblivion, se le carte sono in regola. Sì, è il Fallout nello spazio, dai. Bravissimo. E io là non ci ho capito più nulla. No, ma anch'io, 40... io sono molto in attesa di Starfield. Per questo, vediamo se Bethesda finalmente sotto Microsoft può darsi che un gioco leggermente più pulito l'abbia fatto. Ma guarda, su quello... Io ci spero. Magari mi mancherebbe pure qualcosa se mancassero dei glitch o dei bug assurdi. È vero, sono irrimediabile romantico. Però esatto. La cosa di Starfield nel comunicato che dice sarà prerogativa AMD, cioè significa che tu lo metterai ottimizzato per forza per AMD, quindi sapendo che AMD quando va a fare le sue partnership è tra virgolette nazista da questo punto di vista, per cui se tu mi fai la partnership con AMD io non ti metterò le tecnologie in Nvidia, ma non perché io sviluppatore sono cattivo, ma perché AMD me lo scrive nel contratto, nella clausola del contratto. Cioè, quindi se io ci vado a mettere le ultime tecnologie AMD, quindi FSR, ottimizzazione, eccetera, eccetera, eccetera, non potrei avere né ray tracing, né DLSS, né path tracing, né niente. Almeno per i primi 2 anni. O forse mai. Perché bisogna vedere il contratto come l'hanno chiuso. È quello il ragionamento. Per cui, essendo che gli ultimi videogiochi AMD li sta segando pesantemente e li sta mettendo ottimizzati per appunto proprio per AMD, non vorrei che Nvidia diventasse come già è, cosa che già è, perché le ultime serie 4000 per quanto riguarda i prezzi, io infatti appunto ti ho mandato una slide che non lo so se vuoi far vedere, per quanto riguarda appunto i prezzi eccetera tra virgolette di un canale YouTube a cui ho chiesto autorizzazione, mi ha dato l'autorizzazione, MV Hardware di Marco Verdoliva. Lui ha fatto uno splendido specchietto di quelle che sono attualmente le schede grafiche come costi oggi, e soprattutto tramite la scheda grafica voi sapete che è la parte principale al giorno d'oggi, e poi là ci puoi costruire la configurazione. Quando tu mi vai a dare, allora le Intel in questo momento le teniamo fuori, perché lui le ha messe per un dovere di causa, perché esistono, perché Intel che si buttano nelle schede video si è mai visto. Io pensavo creassero un bel terremoto. Eppure se ne parla, comunque. Se ne parla, però il problema è che hanno driver immaturi, poco supporto, e questi sono delle palese beta. Per cui, a meno che non volete dire, perfetto, ci voglio puntare tutto perché io mi diverto così, tanto di guadagnato, contento per te, ognuno i soldi li investe come vuole. Per questo io stasera, più che fare configurazioni, volevo dare un metodo. Cioè, quindi, come scegliersi le componenti. Perché... dobbiamo innanzitutto dividere 2 macro filoni. Innanzitutto, a parte, vabbè, se vuoi ottimizzazione già l'abbiamo detta, AMD in Nvidia attualmente, per quanto riguarda l'ottimizzazione, i maggiori giochi AAA, per quanto riguarda tutti i AAA che sono usciti negli ultimi 2 anni e che usciranno per i prossimi forse 2 anni e mezzo, sono prerogativa, almeno i giochi sono prerogativa AMD, quindi attualmente in Nvidia è tagliata fuori. Mettendoci che Nvidia di base, col fatto che ha l'80% di market share fonti Steam, che ho qua davanti e che potete andare a vedere, basta mettere su Google Steam hardware eccetera e vi apre direttamente la pagina di Steam. L'80% delle schede grafiche installate sui sistemi di Steam, che è il bacino credo più grosso attualmente, sì, su cui avere un polso, senza il credo, dai. Io sono sempre, da questo punto di vista, sono sempre con le virgolette. Non penso, sempre con le virgolette. Dicono che attualmente la maggior parte in Nvidia, significa che tu sostanzialmente mi stai creando tutta una serie di problemi a catena che devono essere un attimo ragionati con cura. Per cui, partendo dal concetto che le serie 4000 di Nvidia sono uscite con dei prezzi folli e dell'hardware sotto la 4070 scarso, perché tu hai specifiche con delle specifiche assurde, poca memoria, perché abbiamo tutta la serie 4060 e 4070 che esce ancora con 8 giga di RAM, castrata soprattutto, per tutta una questione di bus eccetera, però so pippe. Però detto, come si suol dire, in maniera molto al succo, tu hai in questo momento tutta la serie dalla 4070 in giù che sono castratissime. Quindi se tu te le compri adesso, spendendo mediamente quei prezzi, e ci fai una build intorno, sai già che fra 3 massimo 4 anni probabilmente, se i videogiochi continuano a uscire con questa cadenza, e vediamo Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, The Last of Us eccetera eccetera eccetera, che escono con dei problemi di ottimizzazione, sì, ma sono esosi per quanto riguarda la memoria grafica, perché devono caricare delle hyper texture e devono fare tutta una serie di processi per renderti il giocone bello, sai già che sei già fuori. Quindi devi già mettere mano alle impostazioni. E questa cosa, sinceramente, se io devo andare a spendere 600 euro, 800 euro, una scheda grafica, un po' il culo mi rode, sincero. Beh sì, manco poco. Perché se io vado a spendere 800 euro di scheda grafica, sappiamo già che tutta la config, è vero che adesso le RAM costano poco, diciamo le piattaforme stanno scendendo di prezzo proprio a livello processori, i prezzi stanno calando tantissimo, perché c'è tanta offerta e nessuno li compra, perché la gente appunto ha difficoltà a mangiare, figuriamoci farsi la config nuova, in diverse parti del mondo. Se io mi vado a spendere 2000 euro di configurazione, fra 3 anni, sinceramente devo mettere mano alle impostazioni, non tengo tutto a palla, un po' mi girano. Per cui il mio consiglio è che se tu vuoi mettere mano, allora, come abbiamo detto pure tra virgolette in fuori onda, se, al mio modo di vista, ovviamente sempre un consiglio, fino a un budget 600-700 euro, buttati sulla Steam Deck. Cioè, quindi lascia perdere il computer. Se vuoi solo giocare, tu dici. Gioca, sì, principalmente se vuoi giocare, perché la cosa bella di Steam Deck, che attualmente adesso anche con gli sconti di Steam è sceso ulteriormente di sconto, quindi è scesa sotto la soglia psicologica delle 650 euro, sta 5 qualcosa, solo per giocare tu lasciai il mondo, perché è una console basata su Linux con Proton, che sarebbe appunto il layer che va a emulare le DirectX, quindi puoi far girarci tutti i giochi. Puoi fare del bellissimo retro gaming, c'è tantissimi, quindi tu in pratica... Vabbè, non spendo 600 euro per fare retro gaming, però... Sì, cioè, è vero, però oltre a quello può essere un'ottima console anche come retro gaming. Penso per esempio a gente che mo si vuole buttare su The Witcher 3, mo vuole giocare Cyberpunk, poi gli viene l'attacco di nostalgia e si va a giocare un Pokémon, si va a giocare un Crash Bandicoot. Hai capito? A livello di versatilità, per quello che costa, è sostanzialmente, secondo me, è la morte sua, come si suol dire da queste parti, cioè nel senso, come si dice in gergo, al mio modo di vedere. Se invece vuoi salire di categoria, per quanto riguarda tutta la parte tra, sto guardando lo specchietto, fino tra i 700 e i 1200 euro, che è vero, è praticamente uno score molto alto, però abbiamo la differenza che per quanto riguarda Intel, tu in questo momento parlo sempre, adesso parlo processori, per quanto riguarda Intel tu c'hai un unico problema, che Intel è indietro a livello tecnologico, quindi c'hai i processori che sono su vecchissima architettura, vanno forti, spingono, il problema è che consumano 130 watt e ti fanno 90 gradi al freddo d'inverno, per cui sono un forno. Il problema appunto, per cui a mio modo di vedere, è andare almeno per fino ai 1200, cercare di, se si sceglie Intel, quindi serie 12.000, inizio serie 13.000, RAM DDR4, perché la serie DDR5 costa attualmente troppo, lo vediamo nella fascia superiore, e soprattutto con RAM DDR4, cioè DDR4, scusa, DDR sono quella della memoria grafica, DDR4 con un buon sistema, quindi serie 12.000, magari KF, che sarebbero la versione senza scheda grafica, ci vai a mettere una buona scheda grafica dell'AMD, magari come appunto si vede dallo specchietto, o una serie 6.000, quindi diciamo la medio gamma della vecchia generazione, che come serie AMD spinge in rasterizzazione, spinge come una dannata, per cui mi permette di utilizzare appunto giochi con un ottimo frame rate, il processore spinge, c'ho della buona memoria. La cosa fondamentale, raga, al giorno d'oggi, per favore, le SSD, possibilmente NVMe. Perché attualmente anche un appunto che mi volevo riallacciare con il discorso delle console è che Microsoft ha cacciato questa nuova tecnologia che si chiama Direct Storage, che verrà implementata su sempre più videogiochi, sarà gratuita, cioè quindi la potranno implementare chi vuole, ed è un'ottima tecnologia, ma richiede l'SSD NVMe, cioè quelle là che sono le stick in pratica, non le vecchie SATA. Perché con questa tecnologia, che a livello ingegneristico spettacolare, è molto semplice ma molto complicata. Che cosa fa? Quando tu il videogioco lo vai a caricare, diciamo tutta la parte di texture eccetera non deve passare nel processore, ma viene direttamente sputato nella scheda grafica, quindi tu hai dei caricamenti velocissimi, veramente quasi istantanei, e sostanzialmente hai una resa molto più alta per questa tecnologia, appunto, che è nata sulle console e appunto è stata implementata su PC. Potrebbe essere un'ottima situazione avere quindi SSD NVMe, che adesso costano pochissimo, cioè tant'è vero ci sono dei marchi un pochino sconosciuti come Faxiang eccetera su Amazon, che sono brand cinesi ma vanno molto forte e sono ottime, che da per esempio un tera costano sotto le 100 euro, che come prezzo è pochissimo. Allora sì, allora per quanto riguarda tutta la parte Intel io l'ho volutamente lasciata fuori, perché in linea generale i processori grafici Intel, sai che sarebbero i vecchi processori integrati nel processore, dovevano lavorare in connubio con le schede Intel, quindi quelle grafiche. Il problema però è che sostanzialmente i driver non sono stabili, cioè quindi tu c'hai blue screen, freeze, problemi, Windows si accappotta, quindi è un problema, perché Windows già di suo si accappotta. Windows non si accappotta più, dai, cioè. Allora, devo dirti la verità, io sono 5 anni che non formatto e Windows tenuto esatto. Come Cristo comanda, sì, mantiene, sì. No. Però se inizi a fare cose strane, Windows si accappotta. Allora, il problema è che, vabbè, io ho un po' più di età, no? Cioè nel senso, bravi, sono un po' più grande, potrei quindi... fare scuola. Vengo da un mondo in cui Windows era indispensabile perché c'era quello, ma era la rappresentazione del male. Tu comunque, almeno se eri una persona un po' più skillata, che c'avevi bisogno, installavi, disinstallavi, diciamo che una volta ogni 6 mesi formattavi. Ok, io oggi devo dire, con Windows 10 in particolare, ma anche con Windows 8, devo dire che non ne dico che lo tratto benissimo, perché comunque installo, disinstallo, faccio, smanetto cose, e devo dire io non ho più fatto una formattazione, quindi su questo e impallamenti proprio devo andare, lo devo proprio portare, ma forse lì è anche un problema dei PC, cioè nel senso a volte mi sono arrivati errori più sulla RAM che sul sistema operativo, capito? È vero, il problema diciamo di Windows attualmente, e te lo dico da possessore di Windows 10, fatta la giusta manutenzione, Windows è molto stabile. Il problema è che adesso ho paura, perché dovremmo andare su Windows 11, perché nel 2025 Windows 10 finirà il supporto, sì. E quindi probabilmente non so se andare su Windows 11 rodato oppure su Windows 12, che sarà ancora un attimo, capito, claudicante. Guarda, io non ho molta esperienza con Windows 11, l'unico computer a casa che ho con Windows 11 è questo che in questo momento mi sta riprendendo, quindi siamo carmi, sì. Altrimenti Però devo dire che, cioè, a parte essere molto più stiloso, chiaramente va bene, non mi sembra che abbia avuto grossi problemi fino adesso Michela nel lavorarci. È vero che lei comunque fa applicazioni professionali, web, cose d'agenzia, quindi non è che chissà che cosa ci fa, no? Però dai, devo dire che forse secondo me il discorso della stabilità è l'ultimo cioè, diciamo, è un po' quella sorta di mito caduto, perché era vero, cioè, nel senso che una volta era un disastro, cioè, indiscutibilmente. Oggi effettivamente sì, io mi sento abbastanza tranquillo, cioè, è veramente, non mi è più capitato di perdere documenti, dati, cose. Una volta era uno stillicidio, cioè, o io a fare backup cose, quando tu stai magari a fare un documento di Word e sei arrivato, che ne so, alla 20ª pagina, a un certo punto Windows andava a puttane, lì ciao, cioè, nel senso, diciamo che effettivamente non ti posso dare né ragione né torto, perché la mia breve vita con sistemi operativi, no, non mi sbilancio, perché la mia breve vita, paradossalmente, io credo di aver utilizzato, cioè avuto una botta di culo mostruosa, passami il termine, di aver utilizzato i migliori sistemi operativi nel loro periodo di splendore. Ti spiego, io sono nato con Windows 98, sì, sostanzialmente, io sono del 94, ho iniziato a smanare. Windows 98 non l'ho visto manco di striscio, mamma mia, bravissimo. I vecchi tempi di Windows Vista. Infatti ti racconto l'aneddoto. Allora, io sono nato con Windows 98, non l'ho visto manco di striscio. Ho avuto per due giorni Windows Me, Millennium Edition, che era un putiferio. Si riavviava in continuazione, passato subito XP. Per cui sono morto con XP. Una volta passato XP, guarda caso, erano i periodi di Windows Vista problemica. Io continuo a gestire Windows XP. Nel 2009 passo a Mac e mi faccio tutta la situazione Leopard, Snow Leopard, quindi i migliori sistemi operativi di Apple, sì. E lì anche il maggior detrattore di Apple ti dice che in quegli anni Apple veramente sfornava del software, sì, di categoria superiore. Anch'io c'avevo l'iMac, quindi per questo ti dico di categoria superiore. Poi quando mi è iniziato a succedere il problema nel 2012, quando Apple è iniziato ad andarsene a prostitute col software, e Windows 7 era diventato iperstabile, per cui Windows 7 l'ho utilizzato per un altro paio di anni e sono passato subito a Windows 10. Cioè, quindi, capito, io la cacca non so con quale genio me la sono evitata tutta. Te l'hai dribblata tutta, va bene. Bravissimo, no. Io la cacca me la sono evitata. L'unico problema è che ho, che adesso Windows 10 innanzitutto molto molto più stabile. La cosa fondamentale è che ovviamente quando tu vai a fare una configurazione, spendete 10€, compratevi una chiave originale di Windows 11, iniziate con Windows 11, perché una cosa che appunto mi preme sottolineare, Windows 11 è molto più ottimizzato per i videogiochi rispetto a Windows 10, sì. Perché adesso ovviamente, essendo il sistema standard, Microsoft insieme alle altre, diciamo, case di sviluppo va a lavorare per ottimizzare il sistema proprio per questo motivo. Sì, ma poi perché fa parte dell'ecosistema, quindi oramai è, cioè, tutto integrato. Poi ha tutta una serie di tecnologie nuove proprio per aiutare i videogiochi a funzionare. Certo. Quindi è l'infrastruttura software molto più nuova, per cui comprate sto dannato Windows 11, cioè Windows 11 non avete problemi, e abbandonate Windows 10, perché ormai comprare un computer da gaming di utilità, eccetera, qualsiasi cosa, al giorno d'oggi metterci Windows 10 quando nel 2025 sarà finito il supporto, per noi che ci siamo nati, cioè per noi che l'abbiamo utilizzato, cioè io sono 5 anni che non formatto, rimango con Windows 10, poi magari se riesco a fare il computer nuovo ci parto già con Windows 10. Devo dire, a me, io non l'ho installato sul mio perché non mi dice che l'hardware non è cioè nel senso non ci rientra, stanno i trucchi, ci stanno i sì trucchi, sì, lo so però vabbè, per ora non mi serve, cioè nel senso non mi è servito. Perciò ti dico, consigliati che addirittura il mio è anche hardware supportato, e stiamo parlando di hardware del 2017, cioè a me è supportato. L'unico, perché ci tiene il TPM 2.0, perché per fortuna la scheda madre l'ho comprata a buona e quindi il TPM 2.0 ce l'ha. L'unica cosa che mi scoccio di fa è attivare il dannato secure boot con la criptazione che richiede per forza Windows 11, perché ci ho provato una volta e mi è andata a puttane la partizione di Windows. Quindi preferisco rimanere con Windows 10, perché sennò dovrei formattare. Io mi scoccio perché questo sistema me lo sono iper ottimizzato, organizzato. Quindi, riassumendo, sì, in certi casi è difficile fare un salto del sistema operativo in generale, proprio. Però da quello che mi dicono, in realtà poi alla fine il salto non è così problematico, perché in realtà diciamo che Windows soprattutto sta implementando tutta una serie di sistemi, sia per pulizia, per stabilizzarlo, certo, per autopulirsi, autoripararsi. Sta diventando un dannato Megatron, devo dire la verità, da questo punto, perché tramite la shell. Buonasera a tutti, gli ultimi che sono anche chi è arrivato. Allora, per quanto riguarda, diciamo, da shell, tu puoi dare diversi comandi che possono autoripararlo, e questa è la cosa fantomatica, fantastica di Windows, cosa che macOS non tiene, perché se si rompe. E la cosa, appunto, fica pure è che, ti ripeto, fatta la giusta ottimizzazione, Windows va bene. Per cui una volta che vi siete comprati il PC da gaming, l'unica cosa da fare è fare un po' di debloating, cioè quindi sostanzialmente ci sta un tool di Chris Tips, Tech Tips, una cosa del genere, che io utilizzo, che in un unico comando da shell ti apre una mega schermata, tu ti puoi scegliere i software da installare, che sono i più comuni, quindi il browser, eccetera. Puoi decidere di ottimizzarti il computer, quindi se è un desktop, se è un portatile, ti fa già tutto lui. Mm-hmm. Clicchi un tasto, arrivederci e grazie, ti fa già tutto il debloating, tutto automatizzato, è fatto da un ex sviluppatore Microsoft, quindi se non ci sa mettere le mani lui, lui, certo. Opera lui, effettivamente, ovviamente open source, te lo puoi guardare, quindi stai tranquillissimo. Quindi io l'ho utilizzato su 2-3 sistemi e devo dire che funziona molto molto bene, anche perché un tool tutto in uno, perché appunto una famosa puntata del podcast che sto ritardando da tipo 2 anni è come ottimizzare Windows. Prima era un casino di scaricare mille software, cose, ma adesso si sta riducendo tutto in software open con gli strumenti di Windows. Tra l'altro non hai detto il nome del podcast, eh? Glitch. Glitch. È diventato Magnetar Men's Glitch adesso, perché è diventato più SEO-friendly, come dicono i marchettari. Lo potete trovare appunto nel mio sito per web personale, magnetarmen.com, appunto ci sta tutto lì. Per cui una volta che hai ottimizzato Windows, ho fatto il debloating, ci sta lì driver, dannazione, perché molta gente me la sono trovata, pure sui computer, dai, guarda non mi funziona sta cosa, te ne installa di driver. Un'altra cosa che volevo appunto sottolineare è quando vai a fare gli aggiornamenti driver, soprattutto driver grafici, state attenti perché i driver grafici potrebbero imputtanarvi il computer, perché sta cosa non se la sono mai tolta, perché i driver grafici ovviamente, visto che devono lavorare molto... Sono arrivato tardi per mob CPU. Allora, come ho detto prima, veloce, per quanto riguarda la fascia bassa, quindi diciamo fino alle 600 euro, Steam Deck. Vai come se piovesse, perché ci puoi fare di tutto, ci puoi fare retro gaming, ti diverti, ci giochi, la dai al bambino, se te la rompe butti giù dal balcone sia la Steam Deck che il bambino, quindi va una cannonata. Per quanto riguarda invece il diciamo le medio gamma, che è anche una build su cui io sto cercando di lavorare, per Intel c'è un problema di temperature, perché attualmente lavorano su tecnologia vecchia, quindi c'è un problema di temperature purtroppo. Intanto ho messo nella chat di YouTube, ho messo il link al sito. Ti ringrazio. Allora, per quanto riguarda appunto la serie 12.000 e 13.000, attualmente hanno degli ottimi, dei buoni prezzi, non degli ottimi prezzi, solo alcune, tipo la serie il 12.600 KF, perché pure adesso pure la nomenclatura sta diventando una cosa assurda. Intel l'ha ulteriormente peggiorata, perché adesso i nuovi Intel non si chiameranno più Core i qualcosa, ma hanno totalmente tolto la nomenclatura. Non so se questa cosa la sapevi, quindi sarà ancora peggio. E, per quanto riguarda appunto serie 12.000, ovviamente si può fare mischioni, cioè quindi alcuni mi hanno chiesto anche se può fare Intel AMD come scheda grafica, eccetera, oppure Intel NVIDIA AMD, sì, se può fare che volete voi, perché molti pensavano che non potevi mischiare. Se non fa tutte cose. Sì, hai capito, non si può fare mischione, perché se metti, che ne so, tipo il processore Intel e la scheda AMD non funzionano bene, boom, cioè capito, cose assurde la gente ti dice. Comunque sì, preferisco il KF perché non ha scheda grafica e soprattutto costa un po' di meno, però raga, il problema è che almeno che non scegliete il 12600 o qualcosina della serie 13000 che non vi costa troppo, io lo sconsiglio sulla fascia alta, perché appunto come dicevamo e l'abbiamo ripetuto, il problema è che sono dei forni, sono veramente dei forni, perché lavorano su una tecnologia vecchia, sembrano l'architettura bulldozer di AMD, cioè si sono spagliate le carte, che siamo tornati nel 2009 a parti invertite. Allora, avevo pensato una full Intel B660 13500 e a 770. Come quello che ho detto prima, secondo me te boccio la 770, a meno che non devi fare streaming soprattutto e lavori con grafica e soprattutto montaggio video, conversione video, eccetera, dove le Intel stranamente hanno, seppur i driver sono non ancora diciamo iperottimizzati, ma lavorano a cannone, cioè veramente sono delle cose mostruose, anche per lo streaming con la V1 eccetera, sono delle signori schede per quello che costano, veramente sono dei piccoli mostriciattoli, e non vuoi andare su una cosa nel dire bassa in montaggio, e allora sì, buttati a pesce, perché per quanto riguarda, se non vuoi andarti a tagliare diciamo parti delle mani e andare su Nvidia, che come sappiamo per quella cosa obbrobriosa che Adobe a tutti gli effetti, perché appunto chi sta nel gruppo sa che io ho una guerra personale contro Adobe, perché sono dei software ottimizzati veramente in maniera pessima. E appunto sono sempre stati, però è vero, ma ultimamente stanno peggiorando e stanno alzando i prezzi, quindi sono ancora più incazzato con loro, perdonami il francesismo, anche se Premiere devo dire che rispetto a quando lo usavo io è diventato un programma migliorato. Stabile migliorato Figurati. Pensa com'era prima. Sì, botte da pesce paesano, dipende in che tipo di paesano, perché effettivamente campano, paesano anche tu. Sì, mo non famo, mo non famo la puntata personalizzata, e comunque andiamo avanti. Quindi serie media, serie 12.000 eccetera, e per quanto riguarda le schede rimarrei sulla vecchia generazione di AMD, quindi la 6750, e non andrei sulle fasce superiori perché non si può defare. Per quanto riguarda le, diciamo, le configurazioni un po' più cicciotti, quindi serie alta, io direi, se proprio tieni il figlio, diciamo, sei figlio di papà e tieni i soldi con la pala meccanica, io ti direi investici un bel 2K dentro la configurazione, nel senso, prendi di accantonare 2.000 euro, oppure se vuoi investirci 2.000 euro, ti compri una bella 480, ci metti un bel AMD serie 7, quindi il 7700X3D, che è un mostro, è realmente un qualcosa di assurdo, perché come processore anche la 3D Big Cache, che è tutta una tecnologia di AMD che ha una cache sul processore molto grossa, che sono 92 mega, quindi per quanto riguarda montaggio, per quanto riguarda videogiochi che vanno a stressare il processore, appunto a caricare un sacco di informazioni, ci lavori alla grande, fai una bella build così, ci metti appunto una 480 e un 7700X3D, ti spendi tu i bei 2.000 euro belle puliti, ci puoi mettere anche 32 giga di RAM, perché se rimaniamo in DDR4 ci vai alla larga con 2.000 euro, così ti compri un case con tutte le lucine, cosa che a me non piacciono, perché a me i case li preferisco spartani, che costino non tantissimo, ma oggi, oggi è difficile trovarli, è vero, però sono due aziende che vorrei segnalare, Li, che sono cinesi, però fanno dei case veramente di alta gamma. Considerati che io 400 euro di case, lì ce l'ho per il serverone, il mio famoso serverone entrato ormai nella storia, che mi è costato 400 euro, ma è un signor case, cioè realmente è proprio metallo, se me lo metto addosso e mi sparano, probabilmente fatto bella la mira come organizzata, quindi lì NZXT è un po' troppo fighetta per i miei gusti come diciamo brand, però se vai su Amazon ci sono delle ottime offerte. Soprattutto ricordiamo che 11 e 12, se c'è il link di Amazon referral, spammalo, perché 11 e 12, mannaggia, se hai il link referral, 11 e 12 ci sta il tipo Prime Day 2.0, sì. Però solo per la roba di elettronica, 11 e 12 luglio, potrebbe andare in sconto diversa roba, però secondo me andrà in sconto molta cacca. Per cui state attenti. Come al solito. Controllate, per esempio, un'altra notizia utile che volevo dare, di utilizzare Keepa, scritto KWEPA, che è appunto un'app che monitora appunto i prezzi di Amazon. Quindi andate sul prodotto, utilizzate Keepa e vedete se non vi stanno a fare il gioco delle tre carte. Cioè che ve l'hanno alzato di 100 euro, poi fanno lo sconto di 150. 150 euro di sconto, fortuna. Sì, a meno che il prodotto tu già non lo conosci e sai la media del prezzo. È vero, ma diciamo che questa sera tu mi avevi detto di impostarla per dei principianti, quindi siamo a livello proprio easy. Quindi dicevo, 2000 euro, ci metti una bella 480, ci metti un 64 giga di RAM di DDR4, che adesso vanno alla grande, perché ho visto, inizio a vedere configurazioni con 64 giga di RAM, e perché non costano veramente niente, te le tirano dietro, un bel 2 tera di NVMe, ce ne compri magari due, perché in 2000 euro mi sono fatto già i conti, c'hai abbastanza diciamo budget per comprarne due. Su una ci metti solo il sistema operativo, magari da un tera, e sull'altra ci metti i giochi. Se poi vuoi uscire pazzo, ci fai addirittura il RAID di SSD, così vanno ancora più veloci, ti fanno tipo 12 giga, 13 giga al secondo, diventa una memoria RAM a tutti gli effetti per la velocità che raggiungono, e stai tranquillo e flexi, come si dice fra i giovani. Esatto. Perché con una cosa del genere. Per quanto riguarda invece, se vuoi andare su AMD, che in rasterizzazione va quanto in Nvidia, però la paghi la metà, perché se vuoi andare su Nvidia, tieni DLSS Frame Generator, puoi sparare in 4K maxato, però se attivi il Ray Tracing potresti iniziare ad avere dei grossi problemi, perché comunque se sta intorno alla 470 Ti, per esempio, c'ha problemi sul Ray Tracing, una cosa che Nvidia non ti ha detto, perché l'hanno ipercastrata da questo punto di vista, per cui se usi il Ray Tracing ti inizia ad abbassare pesantemente, e quindi diciamo, potresti avere un problema per le configurazioni alte. Dico più la 480 o la 7009, che sono le ultime di casa MD, cioè 7009 XT, non la XTX perché sta a un prezzo folle. Ti compri quella leggermente sotto, quindi la XT, spendi 800 euro, ti compri, è il mio caso, perché in una build che costa intorno ai 2K mi sono fatto, ci sta appunto la 7009, perché in Nvidia non mi piace, costa troppo sinceramente. E ovviamente build AMD, processore, scheda grafica Nvidia. Mentre se invece appunto vuoi risparmiare, nel senso tra virgolette vuoi fare una build iper ottimizzata per quanto riguarda le temperature, ti fai una combo AMD sempre 7700X con una 4070 Ti. Hai una build che ti costa intorno ai 1200 se te la vuoi fare ipercarrozzata, però consuma come una console. Cioè a paletta, Cyberpunk, 4K, ray tracing, path tracing, ci sta anche anche la nonna tracing, tutto attivo, nonna tracing, tutto organizzato, tutto a palla, ti consuma processore, scheda madre, cioè ti consuma la bellezza di 220 watt, una cosa del genere. Che follia. Eh sì, perché poi è forse uno dei grossi più grossi problemi adesso. Come adesso, perché adesso sì, te l'ho detto, in questo momento abbiamo delle dicotomie mostruose per quanto riguarda la parte PC, perché abbiamo AMD molto buona nel rapporto prezzo prestazioni, ha fatto un ottimo lavoro, quindi consuma poco. Nvidia ha sempre consumato poco perché la serie 4000 Ada Lovelace è una tecnologia mostruosa, veramente hanno fatto un lavoro assurdo, ma se la fanno pagare troppo. E quello è il problema, che se le schede costassero tipo la 490 Ti, non me la puoi fare uscire a 1800 euro. È vero che la 490 Max Hyper Super attualmente è una scheda non ho le parole per descriverla, che non so se l'hai vista, cioè in generale visto i benchmark, visto le cose, sì, la 490 è una scheda da 1700 euro, ma attualmente è una scheda inesistente. Cioè se ti compri quella e ci metti sotto un bel processore bello carrozzato, per 10 anni puoi anche non toccare nulla, perché è una scheda che consuma poco e spinge come una bastarda in una maniera assurda. Cioè veramente sembra che ci abbiano messo i peperoncini, è mostruosa come scheda. Per cui questo è più o meno, secondo il mio modo di vedere, la panoramica generale un po' delle configurazioni. Okay. No, anche perché poi comunque tu dici giustamente, secondo me noi siamo abituati, forse questo è il difetto dell'essere usciti, magari perlomeno per quelli come me che sono usciti dal mondo console, no? E ragionare secondo il termine, ok, questo costa, questo c'è. No, in realtà, come tu dici, se tu conosci la persona che è esperta, che te sa ottimizzare il computer, te lo sa preparare, te lo sa impostare, fa le scelte giuste anche sull'hardware da mettere dentro, diciamo che ci sono tante soluzioni, no? Da questo punto di vista, ci sono tante soluzioni per il budget, ma soprattutto. Quello che capita spesso e che capita tantissimo è avere configurazioni sbilanciate, cioè nel senso tu ci metti una scheda grafica che è magari iperpompata, boom boom boom bam bam bam, il processore è un po' troppo striminzito, in 4K non lo noti. Cioè ti faccio un esempio, ti compri una 480, spendi 1200 euro, però c'hai magari una serie 10.000 di Intel che è un po' vecchia, è abbastanza vecchia. Se giochi in 4K non te ne accorgi tantissimo, perché perdi 5, 6, 10 frame al massimo, perché ovviamente in 4K c'è, cioè più sali di risoluzione, di dettaglio. Dal 1440 in poi molta gente non sa che il processore sostanzialmente si sgrava, perché è la scheda grafica là che fa il lavoraccio. Certo. Da 1440 in su è la scheda grafica che inizia a dettar legge. Però se scendi a 1080 vedi che paradossalmente ti fa meno frame che in 4K, e la capisci che sostanzialmente si sta facendo bottleneck il processore. Quindi o mi trovo configurazioni sbilanciate o mi spendono un sacco di soldi in scheda grafica, processore, RAM con le lucine, poi ti comprano l'alimentatore da 50 euro che appena diciamo vai a attaccare tutto via, pum, zomba. Sì, che poi tra l'altro, cioè, a parte i consigli, no, che dai te, magari possono pure, magari se siete curiosi comunque contattatelo Giuseppe, probabilmente vi risponde. Sì, anche io per gli amici di configurazioni qualcuna le faccio. Però basta stare attenti a queste cose, cioè nel senso più che altro tu quali, perché io vedo che ci sono tantissimi canali di YouTube, però a me alcuni sembrano dei gran cazzoni, cioè nel senso, sai quelli là che ti modificano le marmitte delle motociclette, capito? Cioè nel senso, invece secondo te quali potrebbero essere dei canali che possono essere buoni da essere seguiti, magari anche non solo italiani? Allora guarda, per quando, allora io adoro Linus Tech Tips, però che fa informatica a livelli proprio over the top. Ok, cioè, lui over the top. E ti fa anche le recensioni delle schede. Però è un po' troppo americano. Non so se mi hai capito. È un po' troppo wow, figa! Yeah, yeah, capito? Top. Magari lo sì, magari Nvidia lo sponsorizza, dice bellissima la scheda. Poi ti fa la live di un'ora e mezza che lui lo fa il sabato mattina. Sta scheda è una merda. Vabbè. Hai capito? Quindi è un po' troppo americano. Te dico. Allora, come canali italiani, appunto, ci sta Marco Oliva, MV Hardware, quello là che ti ho fatto vedere lo spin. Okay. Ci sta Sadditech, che quelli che consiglio, due che consiglio principalmente, perché sono quelli che hanno un po' la filosofia mia, cioè nel senso non devi spendere i miliardi, la configurazione deve essere ben bilanciata e soprattutto devi spendere il giusto rapporto, bilanciarlo con i pezzi, perché se no poi alla fine arrivi io tanto ho messo 800 euro di budget, non me ne frega una mazza. Sbagli a prendere le offerte, sbagli a prendere i pezzi, magari potevi risparmiare 200-300 euro tra un'offertina qua, un'offertina là, guardando magari su un altro Amazon, eccetera. Ti vai a comprare l'alimentatore da 50 euro, vai a montare tutto, ti zompallare il computer, si spegne casa, il condominio ti denuncia, ed è un problema, perché per esempio molti fanno e loro hanno puntato molto su questa cosa, lavorano molto sulla corretta informazione sull'alimentatore, per esempio, perché l'alimentatore è stato snobbato da tantissimi. Sì. Faccio un esempio: i Cooler Master serie 500 ce ne sono di tre tipi, due di questi ti fanno saltare all'aria il computer. Sì, poi in privato parliamo, ti racconterò nei prossimi giorni, ti racconterò una cosa che mi succede ogni tanto al computer, una cosa strana. Magari salta all'aria. No, quello no, però muore. Nel senso? Muore. A un certo punto il computer, perché magari ho toccato qualcosa, perché non so per quale ragione, si spegne. Si stoppa. No, si spegne proprio. Si spegne e lo devi riavviare. No, e non si accende più. Tipo, si riaccende dopo due giorni. Tipo come se andasse in corto, capito? Come se ci fosse una protezione, un blocco, capito? Cioè, qualcosa di due cose devi vedere quando sono ste cose, perché un problema facilmente potrebbe essere un problema elettrico o un problema di qualche pezzo. Se è un problema elettrico, significa due cose: o l'alimentatore non ce la fa, quindi si sovraccaricano i condensatori, mm-hmm. e intanto fin quando non si raffreddano l'alimentatore esce fuori dalla protezione, non ti parte il computer, oppure c'hai a casa la corrente sporca, cosa che può essere se c'hai un impianto elettrico vecchio, oppure se sostanzialmente l'impianto elettrico ha dei carichi strani. Tant'è vero che una cosa che consiglio, se c'hanno un po' più di budget, io ce l'ho perché c'ho il serverone, quindi devo rimanere, c'ho il backup, utilizzare un piccolo gruppo di continuità, che non costa tantissimo, magari però di qualche buona marca, magari o della PC oppure di qualche marca comunque che consigliano in giro, basta vedere, ce ne sono tanti di canali che consigliano ottima roba, soprattutto per gli alimentatori Falco, che è mostruoso, lui veramente proprio ti fa la cosa scientifica, ti vede l'alimentatore sul banco, ti dice guarda questo fa cacare perché questa porta, se la porti a totto oltre le specifiche salta all'aria, fa delle cose veramente scientifiche, perché lui si vede che ha una nozione tecnica pesantemente sulla corrente, e quindi tutta nozione di corrente, di gestione della corrente, per cui appunto Sadditech, MV Hardware, per l'hardware in generale, se volete avere qualcosina in più sugli alimentatori, Falco 76-79, comunque una cosa del genere, cercatelo su internet, Falco alimentatori su YouTube, e questi sono il famoso trittico delle Ave Marie, come si suol dire, perché il fatto che il computer si spegne, non vorrei che fosse... No, ma non succede, cioè, succede una volta all'anno, però è successo, insomma, un paio di volte è successo, infatti l'ultima volta che è successo ho detto, vabbè, qui oramai devo buttare il computer, invece poi dopo mi sono ricordato sta cosa, ho lasciato passare un giorno e mezzo, sono andato lì, si è riacceso regolarmente, quindi evidentemente magari c'era un qualche tipo di protezione, qualcosa, insomma. Devi avere più informazioni. Ti posso dare una mano, ma inizia a essere più analitico quando si spegne, che ci stanno problemi di temperatura, problemi strani, è caduto un fulmine, eccetera. Devo la prossima volta che magari cerco di circostanziare un po' meglio la situazione. Capito, più informazioni dai, meglio è, perché comunque per tutti quelli, insomma, in generale che abbiamo detto fino adesso, insomma, magari abbiamo dato due o tre aree, insomma, no? Diciamo che poi il problema magari di tante persone è quello, dice sì, però il computer con che faccio, scelgo, e magari insieme a qualcuno che mi aiuta riesco a ottimizzare con quegli 800 euro che ho, o 1200 o 2000 a seconda di quello che volete spendere. Però poi alla fine ci sono anche delle soluzioni tipo quelle del noleggio operativo, che però con Giuseppe abbiamo detto sì, però Giuseppe, il noleggio operativo per il PC è una cosa un po' particolare, perché o vai a cercare delle macchine professionali o la maggior parte sono degli hardware molto generici poi alla fine, che non portano grossi risultati, e o perlomeno a me non mi lasciano grande soddisfazione, perché li vedo, insomma, magari gli hardware un po' più vecchiotti, se, a meno che non vai su Mac, come dicevi te, giusto Giuseppe? Sì, il noleggio operativo è buono su Mac, perché sono bene o male, ti ho mandato anche il link di un tool, poi ne parliamo brevemente, okay. Perché quello è un'altra chicca che vi lascio, va fatta sempre negli anni. Allora, per quanto riguarda... Che poi la puoi mettere direttamente in chat, quella è la chat tra noi, questa. Dovrei andare su YouTube per mettere. No, guarda, ce l'hai qua sotto, no? Non ce l'hai? No, vabbè. La metto io. Sì, poi mi insegni a usarlo bene questo coso, perché effettivamente è un po' diverso da quello che utilizzo di solito. Comunque, per quanto riguarda il noleggio operativo, non lo consiglio, perché di base i sistemi sono mal tarati. Cioè, quelli che hanno di solito per noleggi operativi sono aziende che hanno hardware a palate, quindi prendono, buttano dentro, perché tanto magari ti mettono delle iperconfigurazioni sballate, magari ti mettono un i9, che quindi processore da 1200 euro con il dissipatore stock della Intel che prende fuoco subito, perché tanto partono dal concetto, oppure l'alimentatore da 25 euro comprato dal cinese sotto casa, perché partono dal concetto, tanto fanno il noleggio, che me ne frega, zombano all'aria, saltano all'aria, mi li vanno a cambiare. No, oppure oppure sono quelli già marcati, no? Tipo MSI, Lenovo, questi qua, sì. Capito? Cioè, per quanto riguarda le aziende, sì, io direi di lasciar perdere, perché di base anche quelli, e ne ho visti diversi video su internet, sono mal ottimizzati, cioè nel senso sono sbilanciati e i prezzi sono folli per quello che ti danno. Cioè, se te lo costruisci oppure ti trovi qualcuno che te lo sa, anche perché costruire il computer non so come era 30 anni fa, ma adesso è diventata una cosa semplice, molto semplice. Basta stare attento alle istruzioni. Dici a montarlo? A montarlo proprio. Sì, vabbè, era facile pure 30 anni fa. Cioè, nel senso. Non lo so, perché tu di solito mio padre, quando lo sento, dice: quello. Che anche lui è appassionato di hi-fi, di tecnologia. Sì, dice, sì. Ma quello. Quando ero giovane, io bisognava fare i Macintosh, le cose, le i PC, cioè, da quando esiste il PC assemblato, non è mai stato un grosso problema assemblarli. Okay. Il problema è sapere quello che facevi. Cioè, che vai a fare, ho capito. Comunque, guarda, te l'ho detto, il noleggio operativo è quello. Poi per quanto riguarda il link che ti ho mandato, che lo metto adesso. Sì, i PC sono troppo di destra per i miei gusti. Effettivamente MSI, che è rossa, dovrebbe essere un po' comunista, devo dire la verità, perché loro c'hanno il rosso come brand principale, dovrebbe essere comunista. Comunque il link che ho inserito si tratta di un sito ottimo, che utilizzano molti assemblatori, principalmente non tanto italiani ma fuori oceano, che è PC Part Picker. Andando su questo sito, Mo l'ho capita, MSI, perché lui dice il Movimento Sociale Italiano. Ci ho pensato pure io un attimo, perché ma va a cagare. vedi il fatto di Craxi, vedi che io sono giovane, queste battutacce non le capisco. Comunque PC Part Picker è un ottimo sito su come creare come farti la configurazione, perché la cosa simpatica è che tu innanzitutto puoi vedere delle configurazioni fatte da gente che comunque ne capisce. È un social network di chi assembla computer. È figo questo. È molto figo. E puoi vedere già delle configurazioni già fatte. Ci sono le recensioni di altri utenti. La cosa bella è che il computer te lo puoi anche costruire da solo e salvarti la lista come se fosse una specie di wishlist di Amazon e condividerla con chi di dovere. La cosa ancora più questo me lo salvo, perché così lo metto nelle note dell'episodio, perché sennò non lo farò mai. Puoi mettere anche appunto i prezzi, ti fa vedere già i prezzi di Amazon, quindi tu sai già la build quanto ti costa. Ora si è aggiornato, ha fatto un aggiornamento mega galattico, perché innanzitutto prima questa cosa non lo faceva, ma secondo me più di qualche gente che ne capisce li avrà bacchettati, perché la cosa bella è che quando vai a fare la configurazione, ti faccio un esempio, scegli il processore AMD, ti toglie dalla lista tutte le schede madri che non vanno bene con AMD, che magari sono Intel eccetera, una zanzara, che magari appunto sono, ti toglie tutte le schede madri che vanno bene solo per Intel se stai scegliendo processore AMD, così lui già di base ti toglie c'è pure PCB da simulator, però quello ci giochi. Questo invece serve a farsi la build. E quindi ti puoi già organizzare le cose. Ti dice se scegli. Sta variando a tutta birra comunque. Ma Francesco. Sì, lo so, ma la lobby perciò mi fa morire. Sta andando a tutta birra. E la cosa pure figa è che ti metti appunto, ti fa job scraping di quello che puoi sbagliare. Mm-hmm. Se ti scegli un case magari troppo piccolo, ti dice: guarda, attenzione, la scheda grafica che hai scelto è troppo larga. Scegli un case più grosso. Ah, certo, però non certo. Ci entra. Poi ti dice sotto, ti fa vedere in maniera grafica sulla scheda madre che hai scelto. I componenti che hai scelto dove si vanno a collegare, in modo che sostanzialmente tu sai già in maniera ottica dove metter cosa, e se ti dice se hai collegato, per esempio, ti faccio un esempio sulla scheda madre di adesso, se colleghi troppa roba, tipo troppi SSD, e ci vuoi mettere una scheda grafica potente, la scheda grafica potrebbe essere cappata perché hai scelto un processore non troppo performante, quindi che non ha troppe PCI lane eccetera. Lui te lo dice, negli alert. Quindi anche per chi non è, diciamo, espertissimo di computer, potrebbe già imbastire una configurazione. Certo. La cosa figa è che il link appunto è condivisibile, quindi magari se lo dai a qualcuno che ne capisci, dici: oh, mi fai guarda un check. Un po', esatto, ok, certo. No, ottimo, questo è un bel suggerimento, lo metterò nelle note dell'episodio sul podcast, perché chiaramente è invece un ottimo suggerimento, non magari, cioè nel senso... Beh, io penso che se tu non ci capivi prima non ci capivi neanche dopo. Il problema è che, come dici tu, però magari io mi costruisco una cosa ideale, la mando il link a Giuseppe, Giuseppe dice: guarda Simone, che questa, cioè, questo pezzo qui è una monnezza, lascia perdere. Insomma, posso pensare, sì, se mi dai a dire la cosa bella da social network è che se mi dai i permessi di scrittura io ti posso anche personalizzare la build, certo, cioè certo. Nel senso, ti dico: questo te l'ho tolto, questo te l'ho messo, te la risalvo, esatto. E tu c'hai, diciamo, già ottimo. La checklist compresa. Figo, questo è veramente figo, bel suggerimento. Hai visto? Bravo Giuseppe. E c'ha tutto, oltre al PC ci puoi mettere gli schermi, ci puoi mettere le cose, e ti dice se hai comprato troppi schermi che non ci entrano nell'attacco della scheda video, cioè, capito? È fatto, come si dice, ottimo, appunto, ottimo. Da questa parte con i cazzi. Tiene in considerazione un sacco di cose, certo. Poi in realtà avevamo tra di noi, mentre parlavamo, consideravamo anche un'ultima ipotesi, che è quella, sì, di invece di pagare 9,99 al mese un Netflix, che poi non costa più, costa 13-14 euro ormai. È aumentato i costi. È aumentato, sì, molto i costi. Poi noleggiare, diciamo, in cloud un computer, cioè nel senso che tu, cioè, puoi prendere una macchina super performante che diventa, tra virgolette, tua, nel senso fin quanto la noleggi, e ovviamente ci metti i tuoi account, c'è, cioè, il Windows, c'è ci puoi mettere l'account di Steam, puoi fare quello che ti pare a te, via dicendo. È un computer in cloud a tutti gli effetti, cioè come se stessi facendo il Teamweaver a tutti gli effetti, come se stai facendo un Teamweaver da remoto oppure un desktop remoto, sì, è identico, diciamo, cioè una macchina con tempi, cioè, di reazione magari migliori del Teamweaver, insomma. Questo è sicuro, tant'è vero che queste tecnologie che sta cercando di fare anche Microsoft sono, appunto, si pagano un po' in più rispetto a un server qualunque, innanzitutto perché sono macchine che sono basate su specifiche da gioco, cioè quindi tu già c'hai, ne so, tipo i più fichi ho visto su internet che paghi tipo, ti dice già: guarda, l'hardware che ti diamo per questo tier di costo ti va bene per il 1080p, puoi andare a 1440 a 4K, ma sinceramente se non c'è lo schermo 4K e se non c'è abbastanza banda, mi pare un po' inutile, capito, noleggiarsi la macchina iper mega super, giochi, certo, 4K e poi con la ricompressione se vede a 4,40. Sì, no, vabbè, ma in quel caso magari può anche servire dal punto di vista pure professionale, comunque, cioè, sì, loro ovviamente ti tarano i pezzi soprattutto per il gaming, però ovviamente, diciamo, dipende, perché ce ne sono alcune che ti fanno tipo, sono un po' più limitate, cioè ti danno già Windows installato, okay, che ci puoi installare solo i client, quindi Steam, certo, Epic eccetera eccetera eccetera, ci puoi installare solo i giochi e non lo puoi toccare più di tanto. Beh, giusto. Altre sono proprio libere, cioè nel senso ti danno un computer in quello che sta facendo anche Microsoft con PC 365, una cosa del genere, con comunque col nuovo Office, che, sì, tu c'hai un computer proprio in cloud, ti dice: ti do 8 processori, 8 giga di RAM, tu ci puoi installare che cacchio vuoi tu, ci puoi installare Premiere, ci puoi fare che vuoi tu, ci puoi anche montare video magari in 4K, esporti, scarichi, è roba tua, certo. Quello è il ragionamento, cioè, il problema è caricarceli i media, uno, due, non so la privacy del cliente, dove quante scartoffie devi far filmare, vabbè, perché sì, tu stai condividendo, certo, dei dati, sì, sì, certo, una, certo, roba che non è tua, in effetti, quindi sì, è particolare la cosa, vabbè, diciamo, queste sono comunque situazioni che un giorno poi si dipaneranno, diventeranno magari più standard, no? A un certo punto il problema in questo paese è, come almeno parlo per me, è la connessione a internet. Per quanto io abbia un'ottima connessione pagina internet, perché pur essendo, come si suol dire, sul cucuzzolo della montagna, dove probabilmente non ci verrebbe a morire nessuno, non dico a vivere, ma neanche a neanche l'ultimo a morire, giorno di vita, diciamo. No, neanche a morire, però io sto bene così perché mi piace la natura, dopo aver vissuto tra le mura cittadine per i primi 20 anni della mia vita, c'ho un'ottima 200 mega che va a 200 mega, quindi sono discretamente felice. Ottimo, va bene. Bene, io direi che insomma abbiamo fatto un po' una panoramica e ringraziamo intanto tutti quelli che ci hanno ascoltato, ma soprattutto ringraziamo Giuseppe, ma adesso prima di salutarlo vi ricordo, ragazzi, sempre che questo è un progetto di Runtime Radio, che Runtime Radio la potete aiutare o sostenere andando su runtimeradio.it, sul tasto anche io, dove troverete tutti i riferimenti, insomma, per poter dare una mano a questo progetto che soprattutto in questo periodo vive un momento di difficoltà, visto insomma il raddoppio del 100%, anzi oltre il 100% dei costi di servizio di Spreaker. E vabbè, quindi non è, se no fate anche questo QR code qua sotto, vi porta direttamente su PayPal, insomma, se volete date una mano. Detto questo, invece, vi ricordo che il sito del Runtime l'ha fatto Giuseppe. è stato un omaggio, perché ovviamente il problema è che attualmente a livello economico è un po' difficile sostenere Runtime, perché ci sono stretto un attimo io. Detto come posso partecipare, e allora ho deciso di regalargli il sito. Quando è possibile vedremo di fargli addirittura la radio pirata, vediamo di organizzarla in qualche modo, se Spreaker continua a rompere le scatole, perché io da Spreaker sono fuggito e stiamo aspettando che se continua a fare la cattiva. Vediamo un modo di organizzarlo anche Runtime dal lato tecnico, perché quando è possibile sono persone fantastiche, e quindi cerco il più possibile di aiutare, di dare una mano quanto possibile anche io. Grazie. No, vabbè, ma noi già siamo una radio pirata. Lo so, però parla di diventare proprio pirata, nel senso proprio a livello di hosting. Trovare l'hosting in Honduras, che paghi $2 all'anno e un paio di banane, un casco di banane, e mandiamo totalmente a quel paese Spreaker. Sarebbe sì, infatti. Vabbè, poi questo è un discorso che faremo anche questo, altrove. Sì. Vi ricordo invece i prossimi appuntamenti, in particolare ve lo ricordo, insomma, eventualmente dovesse partire questa immagine che non parte, però insomma vabbè, facciamo finta che l'avete vista, insomma. Vedi, abbiamo parlato male, abbiamo parlato male del tuo computer con Windows 11, stanno succedendo i problemi. No, in realtà questo è Restream che non l'ha fatto partire il video. Attenzione, Restream, non ci siamo, questa cosa non ci è piaciuta, niente, non mi piace più questo. Vabbè, a posto. Vabbè, vi ricordo che giovedì alle 21:30 sul canale YouTube di Runtime Radio, cioè Quando Eravamo Futuro, io, Davide Gatti, sul Survival Hacking, e Carlo Sant'Agostino, poi non so se ci sarà anche Marco Gualdi Distruggiatore, faremo la puntata Sopravvissuti Drink Edition, ossia parleremo di tutte quelle bibite, bevande alcolici e superalcolici degli anni 70 e 80 che oggi sono passati di moda, sono spariti, sono stati banditi o addirittura non esistono praticamente più, mentre venerdì sera alle 23 sempre sul canale YouTube di Runtime Radio faremo Runtime by Night, che ogni tanto Giuseppe ci viene a trovare, se poi vuoi poi vediamo se il 7 ci imbuchiamo venerdì sera, dai ci fa piacere, perché poi alla fine è sempre divertente, insomma. Sì, alla fine parliamo sempre di cacca. Sì, esatto. Poi ultimamente noi andiamo senza tema, il che rende le puntate ancora più divertenti, è una cosa incredibile. Mentre il lunedì prossimo, sempre invece su questo canale qui, questo di Dietrologia Videoludica, parleremo del videogioco che costruiremo noi, che ci verrebbe in mente, come lo faremo, che tipo di storia ci potrebbe essere, e via dicendo. Insomma, quindi sarebbe una cosa, sarà insomma una puntata più creativa da un certo punto di vista, molto meno tecnica. C'è anche Pixel Deb, poi se vuoi venire pure tu, Giuseppe, insomma, magari tu ce l'hai avuto il tuo videogioco nella tua mente, no? Guarda, io un gioco che sarebbe uno dei primi videogiochi a cui ho giocato, me l'hanno già rifatta la remastered, perché avevo due giochi per cui uscivo pazzo, uno era Max Payne e uno era Starcraft mi hanno rifatto il 2, quindi sono contento. Per Max Payne hanno detto che faranno la remastered, vediamo Rockstar se combina qualche casino. Sono curioso, sì, beh, per carità. Un videogioco molto improntato alla storia, una cosa molto noir, mi piacerebbe effettivamente. Bene, ragazzi, io direi che per questa puntata è tutto, quindi ringrazio ancora Giuseppe, ringrazio tutti quelli che sono stati in chat con noi, quelli che ci hanno guardato senza interagire direttamente, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao Simone, grazie a tutti, buona serata. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.